15. Una folla vociante urlava di parrucche, cappelli e acconciature i larghi marciapiedi di Paul Mall. A trattenerla con me un lungo rammendo scarlatto, braccia e fucili della Guardia Reale, rinforzati qua e là dagli zoccoli della cavalleria. Due ali di popolo si allungavano per oltre mezzo miglio, dall'ingresso settentrionale del palazzo fino all'incrocio con High Market. Qualche ben informato giurava che gli indiani non si sarebbero visti, che la notizia, circolata in tutti gli ambienti, amplificata dalle gazzette, era priva di fondamento. Ciononostante, lavorava di gomiti per guadagnare la visuale migliore. Altri sostenevano che un fratello, un cugino, un amico, aveva già goduto il privilegio di osservare da vicino i selvaggi e garantiva che non c'era nulla da vedere, che i due si somigliavano a un qualunque signorotto di Islington, vestito a festa per la funzione domenicale. Ciononostante, aspettavano da ore per controllare di persona. Qualcuno si faceva beffe di tutti, poveri stolti, che aspettavano nel posto sbagliato, quando era chiaro che i principi canadesi sarebbero arrivati dal parco di St. James. Cercava di convincere almeno un paio di sconosciuti a seguirlo, che c'era da fidarsi, non poteva che essere così. Ciononostante, di andarci da solo non ne voleva sapere. Se il povero stolto era lui, voleva qualcuno accanto per condividere la disgrazia. All'improvviso prese ad alzarsi un brusio, prima stupito, poi eccitato, poi sempre più forte, acuto e ingombrante, finché gli «ah» e gli «oi» non si modellarono in qualcosa di comprensibile. Un terremoto di «arrivano! Sono loro! Eccoli là!» Una vettura di gran lusso procedeva solenne in fondo a Pall Mall. I soldati trattennero a stento la calca immane di corpi e voci. Proprio allora, dietro un manipolo di gentildonne che reclamava a gran voce il principe degli indiani, comparvero altri selvaggi. «Lasciate passare! Portiamo una lettera per Sua Altezza!» gridava il loro battitore pennuto nel tentativo di incunearsi e raggiungere la carrozza. Le signore lasciarono fare che uno vestito a quel modo poteva essere davvero un messaggero del principe e infilarsi dietro lui era forse la via più rapida per guadagnare le prime file. «Sarà gente del seguito, servitori, lacchè», disse qualcuno. Un altro ribatté che uno dei selvaggi abitava nel suo stesso quartiere, a due passi da casa sua. «Ma piantala, non lo vedi che ha la pelle rossa? Ha la pelle rossa il tuo vicino?» Altri ancora fecero notare che almeno due indiani sembravano ubriachi. «E ti stupisci? In India bevono senza ritegno e risaputo, peggio degli scozzesi!» Intanto i selvaggi approfittavano della confusione per arrivare a ridosso della prima fila. Cominciarono a premere con veemenza, in modo che i soldati attribuissero la spinta a quelli davanti. Le guardie distribuirono mazzate su teste incolpevoli. I malcapitati dapprima cercarono di giustificarsi, indicando alle spalle, poi riuscirono a farsi da parte. Guardie e selvaggi si trovarono faccia a faccia. Il principe Thayendanegea, coronato di penne, si sporse dalla carrozza per controllare cosa stesse accadendo. Il messaggero dei selvaggi capì che non ci sarebbe stata un'altra occasione. Fece segno ai suoi di sollevarlo e con un balzo si lanciò oltre i soldati, il braccio proteso e la lettera stretta in mano. Il principe distinto l'afferrò. «Da parte degli indiani di Londra!» gridò il messaggero. L'indiano londinese si sentì afferrare dalle guardie e tirare giù. Torcendosi come una serpe, si liberò dallo scialle che l'indossava a mo' di mantello. Sfuggì alla presa, diede un colpo di reni, si aggrappò alla carrozza e l'arrampicò con velocità di un ratto. Salito a cassetta sotto lo sguardo allibito del vetturino, con i vestiti a brandelli e il ciuffo spettinato come una cresta, allargò le braccia e la bocca in un ghigno allucinato. «Dio salvi il re!» strillò. «Potere Mohawk!» Con un grido belluino si gettò di sotto, in posa di crocefisso, per atterrare sulle braccia protese dei compari. Quelli schiacciati nella calca non trovarono lo spazio per metterlo a terra. Lo tennero lassù, come il cadavere di un martire esposto alla folla, e con spinte d'anca, di ginocchio e di piede, si aprirono un varco verso la salvezza. Non abbastanza largo per accoglierli tutti. Un'ora più tardi, mentre gli ambasciatori dei Mohawk entravano a St. James Palace, ricevuti con tutti gli onori, due indiani di Londra entravano a Newgate con gli schiavettoni ai polsi.